si porta, se lo porta dietro è amplificato. Oh, tutto un casino. Su mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, casa qua di qui, che vuoi va? Per uscire stai dicendo, tu devi essere negativo per poter uscire. Ma devo fare il tampone, capito? Allora, ieri era, oggi cos'è mercoledì? Vabbè, ieri non conta, mercoledì, oggi è mercoledì, giusto? Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. 5 giorni devo aspettare per fare il tampone, l'altro tampone. Infatti, febbre ne hai? No, non ne ho febbre, niente. Mal di gola mi è rimasto, buh. Casino Natali. Senti un mio amico, cazzo ti spaventi, ma c'ha la voce. Adesso anche lui c'ha l'afte in bocca come uscita a me. Casino. Mi hai sì. Anche io quando mi devo alzare per andare in bagno. Me. E adesso quando vuole farmacia glielo chiedo. Sente. Se mi dà qualcosa pure a me. Stamattina ho preso lo sciroppo perché anche babbo e mamma sono con la tosse. Ora dica. Entis. Già l'ho sentito, fa anche ridere, poveraccio. Perché ti prende la gola, capito? Ma io già da sabato, non è che mi avevo febbre, ma non avevo gana, non poco così. Poi mi stavo stressando la vita, perché stavo mettendo musica, chiedo pure a chiedo, chiedato buoni gusti, ci tacco, fai di blu e mi avete rotto le valle. Ah, poco sempre maloso. E allora, cioè, che non mi manda una cosa, che non mi manda un'altra, fate quello voi e arrangiate. Cosa vuoi fare? Ma un po' di gente ha contagiato questa Asturia, boh. Qui vicino pure. Eia, un po' di gente. Tu hai fatto la terza vaccino, Natalie? Eia, non solo, ma c'è madura dottoressa a me. E mi ha fatto pure un santo influenzale prima di fare la terza dose. Adesso mi sa che mi organizzo per fare il tampone a mamma. La mascherina FFP2, mi. Non ve ne mettete quelle mascherine che non servono. Che quelle le devi usare una volta e le devi buttare via. Qual è l'FFP2? No, quella chirurgica. Lo so. Perché la usavo una volta, la usavo più volte. Ma vabbè, me la tenevo conto, non è che... No, non idratano. Vista. Natali, è questione di soldi. Guarda quanti soldi stanno facendo le farmacie affollate per fare il tampone, affollate. E pensare che prima facevo l'ATS il tampone, per carità. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? A me mi hanno rifatto 3 di tampone. Mia voce andava a ripilare, mi dovevano ricoverare, mi facevano il tampone. Quello al naso, va? E allora, quello lì si deve fare, è quello che vale. L'altro non è tanto affidabile, no? Lo so, mi ha fatto i luci a me, quello di via 30, mamma mia. Già non è niente, E tu hai fatto quello, come si chiama? Quello rapido, là. No, non è fatto rapido, chi ti fa bene Mario, Giovatto? C'è qualcuno che sta chiamando, chi è? Mario, produttore di Barabubre, Santiago 3 e 4 sta arrivando qua, forse gli altri non ti sentono. 4 di QRM c'ho io qua, figurati. Sì, Mario, no, arrivi. È perché gli altri ci hanno molto QRM, io con questa antenna purtroppo c'ho il vero, quindi non ti sento. Radio ottima radio, segnale 3-4, va bene. Qua non vedo l'ora di piazzarmi l'antenna, cazzo, almeno ricevo, cazzo. Quindi se non ricevo un tubo. Aspetta, te stava parlando. Ciao Mario, siamo qua, non c'è problema. Vai Luca. Vabbè, io lo sentivo basso, non so se mi ascolta. Lo sentivo basso, comunque già lo sentivo. Io QRM non ne ho, niente, zero. Via da te, cazzo, giù 4 di QRM, no, che forse è che l'antenna è troppo bassa. No, io c'ho 0 con questa antenna, 0 sempre. Ma anche la manca faccio 1 scarso. sembra che ieri, o mattino, forse ieri, perché ero qua, cioè un disturbo. come si dice? Beh, c'ho un po' di QRM. Oggi proprio zero, niente, proprio nulla. Perfetto. La macchina matta qua già è buona come antenna, qua. È silenziosissima. No, andiamo bene. Però questa è superiore. Constatato, provato tutto. Infatti ho provato una matta, ma non intendo a Mario. Con questa invece 4, 5, 3, 4, lo facciamo per me. Adesso mi viene di fammi. Vabbè, a pranzo ho mangiato poco. Abituato a mangiare sti ganasci. Mi salta e mangio un po' di brodo che l'ha fatto mamma a pranzo. Invece di mangiarmi il latte e la carne al brodo c'è anche. La porto qua e mangio qua. Buono anche a me invece il brodo. Buono, anche Anna lo fa. La carne rescia, ma il vitello, cosa buona, anche il pollo si può fare, che è buono stesso. Va bene, dai, continuate, il tuo Natalino, io rimango un attimo in quel X che mi sta chiamando in aria, non so cosa vuole, dai, sentiamo tra un po'. Ok, cla. Sono buone anche le cosce di farfalla con le patate in forno. Coscia lunga, coscia minore. Allora, le ali di farfalla, arrosto, buon arriviso. Sì, ma la coscia lunga è più buona. Sì, mangiando sono buone. Se no, le zampette di anguilla sono buone. Impanate fritte. Allora, lo giorno tutto fa brodo. Se no, le orecchie del coso, del... come si chiama? Ma, del delfino, buon arriviso. Quello inverte però. E c'è il buco. Allora. Dai Benì, riprendi Benì, dai Benì. Ehi, ieri di pollo in brodo, buono. Ma tu stai facendo anche il cuoco adesso, no? Vabbè, stai da mangiare. Stai facendo il cuoco o il cuocuomane? Anche quello ci passa ogni tanto. Hai visto qua, due in uno, cuoco e cuocuomane. Sì, cuocuomane era già benito, apparteneva alla nostra famiglia, anzi è stato anche il cuoco. Cuocuomane. Per carità, amate la salita. C'è un telefono merda. Qua. Aspetta, dobbiamo dire che l'unica oggi che è a mi sta rompendo le scatole. Da decine di anni. Ma il telefono nuovo. Grazie a Nido Cabani Bogu, passaggi a Ankara telefonata, bro. Un telefono cuocuomo ne hai. Ma questo è cuocuomo ne ha virus. Allora, fatta questa telefonata, lunga. È fatta un collega che voleva sapere. Siete più preoccupati. A me mi ha chiamato nessuno, ma sapete, avete Facebook, l'ho messo, ma non mi ha scritto nessuno, niente di speciale. Ma tu piacino, faccio una forza di medicino, che un poco per la gola, per pastiglietto, sciroppo, lunaggio, adesso sono qua come veramente. Ti stai dando il marmiturici. Cioè, si sente dalla voce, non aprono le parti e cambio voce. Cioè, si sente che ti fanno effetto. Oh, stamattina la farmacista mi ha detto, dice che il miele e il limone non fa niente per la gola. Voi dicono che non tocca a sana. Vabbè, ha detto sì, che se no non vende niente. Tira di tappuccia. Chi si è motivata? Cazzo, dici un attimo. Sono i rimedi della nonna. Lo so. Ti faccio un esempio, no? Quando ti bruci al mare, no? E ti vengono quelle punture strane. Un cucchiaio di olio d'oliva, un cucchiaio d'acqua, lo mischi bene, te lo fai spalmare. Dopo pochi minuti ti passa le brucioni. L'hai provato? Sembro Giuseppe io. Acqua con olio, così. Un cucchiaio di acqua, un cucchiaio di olio d'oliva, lo mischi bene. Chi te lo fa, se lo mette nelle mani, te lo spalma nella schiena. Ti va a dire la mano di Dio. Vai, che ti ho visto sotto il ponte del Rosello con un con uno di quegli spinelli infilato nel braccio a te. Ah, per quello c'è la voce così. E tu come fai a riconoscere? Mi c'avevo il cappellino. Pure il cappellino c'è invece. No, non lo sto più usando. La cuffietta. La cervicale. Vabbè, vanno. Ma c'è qua a casa, vabbè, io me la metto, se c'è, io ho la finestra aperta, io stufa non ne ho qua, non mi serve, sto bene così, poi guarda, se mi alzo, meglio che giri l'aria. Pronto, vado tu la finestra a riciclare l'aria. Ah, se così è benissimo, adesso che poi sto male, meglio che sia aperta. Anche, più orecchiatore è meglio. Così il virus se ne va a Piazza d'Italia. Tanto tu non ci vai più, vero? Ci passo qualche volta in macchina, giusto per vedere cosa c'è. Della verità, chissà quante fringuelle, eh? Prima sì, a me prima si frequentava in ghimi, no? O lì o la locomotiva, o la quadrata. Ci divertivamo, anche se tu hai qualche anno più di me, comunque. Ma se queste mimimi che fanno solo casino e basta. Ah, perché un cellulare non avevi molto, prendi casino, non pinnenti, prendi. Invece questi qua distruggono quanto c'è. L'altra volta l'ho messo lì in Piazza dei Turi una bomba a carta, dentro un cestino l'ha disintegrato. E uno l'ha mezzo così, comunque anche quello lì l'ha mezzo rotto. Ho mandato un messaggio a un amico, che è un consigliere, e gli ha fatti sostituire. Lunedì gli hanno cambiato. Bah. Lu, se vieni iniziato a raccattare un po' credo di pubblica. Lo so, però mi ha detto consigliere che di Napoli so poco, quasi niente. Guarda, adesso sinceramente fa cazzate già rifatene, ma chi su i suoi volamenti non ne fatene. Cosa vuoi ti dica, non so. E comunque è pieno, tutto un raddoppio, vabbè, sai perché anche? Perché quando aprono le strade, che magari devono passare dei tubi, sì, ruvati, ma poi quelli se ne scende col tempo. Quelli gli acquazzoni, ce lo manda giù e si forma la voragine. Vabbè, io so a chi non l'hanno tappato qua dall'inizio. Hanno cotto un po' di terra, non l'hanno schiacciata, capito? Infatti vuole schiacciare, vatti a Natali. Sai che famo diventare Natali, come sindaco, Natali? Minimo. A me non ci dà troppo anche i buchi, tutte le voragini che ci sono a Sassari. Chi è avanti? Oh, non arrivi bene, non si capisce niente. Quindi lo senti? Infatti, non si capisce. Oh, non si capisce, cosa stai dicendo, sei basso. Prova. No, sei Cristian, sì. Ah, ecco, cambiatela. Cosa stavi dicendo che ho capito? Negativo, non ti dà modo di uscire. Vabbè. Quello della vita è benissimo, sta bene a casa a riposo, eh. Vabbè, questo già è vero. Tu vivi solo lì, sì? E io? Via da te, questo è un barocca cagazzi. Carità, va. C'ha il bagno sempre libero. Ti alzi quando vuoi, minimo c'ha un silenzio lì, no? Qualcosa? No, vabbè, intendo passaggi di macchine, così, ragazzi ne ha voci, qualcosa di lì, molto smarmittate. Ah, c'è uno con un F10 che è tutto preparato, ogni tanto basta, va giù il casino. Vabbè, comunque già riposi bene, dai, non hai questi problemi. Insomma, già si sta bene. Ma sì, vicino al Gigino Vulcano, sì. Eh? Ho capito. Cosa, se non è più entrato Luigi, o se non ha più gara? No, è passata la voglia, ma piace tutto sempre. Già passo sempre, cioè, sempre. E ci passo per andare a Porto Torre, sposto da ottavo. Già c'è l'antenna ancora. E quella non l'ho piantata a noi. Voi sì, quello me lo ricordo. Ha trovato una mano. Che se la desanizzo, la vuoi levare a cucciolo. C'è anche Giardino, sì. No, nulla. Vabbè. Cucci. ciuccio guida di bene. Cagnolino. Come a te? No. Nulla. Si sta bene così. Vabbè, poi è un impegno, se sei da solo, se sei stato in compagnia tanto quanto, ma te la portava la tua compagna, però se è un impegno il cane. Hai detto brutti, è un bel impegno il cane, no? Ma pure la cartucci mi ha dato la magnata, il lugondo. Allora, vedi bene, se ti prendi un cane, a cosa stai andando incontro? Vabbè, sono le 3 euro. Anche una ragazza andrà a cibare su in verità magna. Se l'hai fatto così va benissimo, se si arrangia la usura, andava. Mi avevi visto mettere a me, cosa vuoi? Vai, cosa vuoi? Saluta Benito. Saluta Benito, saluta. Ciao Benito, diglielo. Salutalo, ciao Benito. Chiamala Benitea, chiamala. Dea. Dea. Vai, vai, no, vai. E dopo è stata aurita, ma non ti innanzi. No, ho preso un gruppio. Vai, no. Perché lei è abituata giù da Marina. Praticamente metto la copertina e sale su, sì. E sta con noi, dai. No. Vedi, anche per quello. Ma senza di noi non la sale. Vabbè. No, io lo sento legato in casa, sia il cane, qualsiasi tipo di animale. Senti? prova, 1, 2, 3, prova radio, ora, ora. Nessuno mi sente? Adesso sì, qui, ma metto la batteria. La batteria che non lo so, la porta non mi messa, se non si è posto da solo. Ma dove sei qui? Per Danieda. Per Danieda? Non mi sono detto a fare, adesso mi sto tutto andando a casa. Ho capito, sei a Per Danieda. Sono a Per Danieda, che ho finito di lavorare 20 minuti fa di lavorare. Adesso direzione casa mia, doccia e divano. Cavolo stai facendo qui? Il magazziniere. Ah, ho capito, andava. Ehi, ehi, ma casa non è il baracchino, no? No, lo metterò più in là adesso. Adesso non lo so cosa mettere sul tetto. Guarda, basta, una boomerang, io da 25 euro, una boomerang, io una bombo. C'è anche altro che tuo fratello, la boomerang, mi sembra. Ma adesso che te l'abbia mio fratello, non te lo so dire. Ma ci siamo, lo sta passando. È venuto su Sinchi. Bombo, ma ne muove a demo. No, manco voglia di guidare, giuro. Sì, lo so. Ah, è il periodo un po' di merda. Mi sa che quest'anno è iniziata la merda. No, no, il problema è che mi sono... Nel tempo io ho ancora passi. Mi sono fatto 16.000 passi con la sciarpa di puntunistica. Hai detto capannone, no? Sì! Tutto il capannone sono fatto, non una volta. Oh, non so quante volte l'ho fatto. Vabbè. Su, andiamo a vedere i gusti. Perché non ne avete tipo muletti, trasfalle, elettrico? Ma qua già c'è il muletto, il trasfalle, tutto quanto. Però quando devi caricare tipo mattoni in una macchina, cioè quello è il discorso, mi muovete a piedi. Ah, e beh, certo, certo. Vabbè. Clì. Interessante lavoro, fregatene. Tutta salute, guarda. Di naso pure, salute no. Guarda, se nessuno lo dice tutta salute, che a loro cammino, a moce un po' di chiletti. Vabbè. Pensate che ogni mese riempi la saccoccia. Non è poco da sicuro, va. Allora, cioè va bene, dai. Ma esci così presto, che la chiudo il vostro negozio. Vabbè, io sto preso perché sono io. Incusabile, sì. Perché entro anche alle 8 del mattino io lì dentro. A tuo giorno rimani? Diciamo quasi, là. Ah, vabbè. Frequenza morta, che fine avete fatto tutti quanti? Povero mondo che ha perso la guerra. Allora. Allora, non è qui, dove sei arrivato? Sono per la niente, sono per la nicca, che stai tirando un pacco. Speriamo che si sbrighi. Ah, sta ascolto bene, proprio sentivo più... USB segnale, andava e tornava. La mattina si è mossa la batteria e stavamo facendo falso contatto. Vabbè, tu qua vado alla riscorta, lì cineseria, la una fuga che da Maurice. Ma qui dai, se nel dubbio te la cambi. Ma già c'è lo Smith, quando fa il microfono fa anche lo Smith. Adesso ho capito, cosa hai detto? Quando c'è la modulazione, non c'è manco lo Smith la modulazione. Beh certo. Gappa Rocci. Ma che è quella farmacia vicino a casa tua? 8:30. Ok, dai. Devo passare le medicine. Ma lì via sul ci sta dicendo, via Romaggia. Via Romaggia. Tutte le 8:30 chiudono. Perché il tampone lo faccio alla farmacia il tampone. Io l'ho preso lì l'appuntamento. Per come si chiama? Il giorno 17, lunedì 17. No, tampone, lo faccio la farmacista, lo faccio io. Ah, tu glieli fai? Sì, la farmacista sì. Di culo sì. Ehi, a capa. Tutto porco. Ai. Davvero. Andiamo. Siamo accorti tutti quanti. E capito, siamo accorti, altro che... Abbi fede, abbi fede. Non ne ho fede io, l'ho persa. Vabbè, io posso così tutta la mia vita ormai. Le cose che mi è rimasto sono ancora gli amici, e basta. E è che adesso c'ho un disturbo, non mi sento bene. Poco fa c'avevo un po' di guarrema e niente, adesso ho questo disturbo. Secondo te devo buttare da qualche aspirapolvere, batteria a cuccia. Beh, l'unica cosa, se rimasti, se sono gli amici ancora, per il resto. Ah, beh. Io mi gioco drumenti. Beh, come stai? Guarda, faccio da te. Guarda, sto bene, dai, ciao. Chi sei che ricordo mai il nome? No. No, chi sei che ricordo mai il tuo nome, non mi ricordo. Che oggi sono incoglionito. Parlo da questa parte. No, Carlo, scusa, ma... perché stavo leggermente appisolando in macchina. Sì, in macchina. Dopo il lavoro mi sta venendo il... il sonnellino. A quest'ora è un po' tardi per il sonnellino, sono le 7 quasi, quindi se resisti, ceni e poi te ne va a nanna. Ah no, siete a te, sono svegliato oggi, ma meno male. E qua mi sta arrivando bene, Santiago 9 Radio 5. E guarda, sono zona Pedanieda, vicino al... facevo i vaccini alla promocamera. Ho capito, sì, sta arrivando bene, 9 anche con i picchi positivi, quindi molto bene. Dai, grazie a Dio, con poco già arrivo bene dappertutto, dai. Io la devo sistemare l'antenna in macchina perché con la base magnetica non è che renda. Oggi ho messo quella l'Alan S9 che è lunga, è una 5 ottavi e c'ha anche abbastanza guadagno, ma non è che è cambiata molto la musica con la base magnetica, capito? Ma io sono la base magnetica sotto sulla capota. Lo so, che antenna stai usando? La base magnetica è di un assidio 250 della frusta nera. L'antenna deve essere di una lem da 1,5 metri. Ah, ho capito. Sì, è nera, mi sa, quella con la, diciamo, il rivestimento nero plastico, diciamo, con l'antenna. Esatto, però io sto usando la base di quell'antenna lì, con l'antenna dell'assidio. Sì, ottime antenne quelle dell'assidio, ne ho avuto diverse. Adesso mi sto provando una lem da 1,5 metri, che ho pagato un 40 euro da Fusaro, ma adesso funziona bene, dai, prende benissimo. Sì, stai uscendo bene, va bene che lì apre Daniele, è tutta una zona aperta, capito, quindi non ci sono grossi ostacoli, invece io stamattina ero dalle parti di Bonorva e da là sentivo parlare Claudio, Gianni, Doppio Room, però nonostante fossi in una postazione elevata, oltre 500 metri, non uscivo bene, eppure ho controllato anche il ROS, era a posto 1,1, 1,2 massimo, non lo so, forse magari la base magnetica. Ma posso dire, guarda, questa base magnetica tiene benissimo anche la velocità, no, non ho mai problemi di che mi sia staccata, guarda. Via, chi c'è oltre noi due sul 10? C'è Luca, fate avanti. Sì, ciao Carlo, sono qua. Intanto mi spezzo la voce. Beh Luca, la gola come va? Meglio? Ma cosa? Sono tre medicine, Carlo, niente, no. Forse dovranno fare il soccorso, cosa ne so. Ascolta, e febbre ne hai? Febbre niente, solo mal di gola e basta. Le muscolari nulla? No, negativo, sono bello in forma, non è che la gola. Vabbè, cerca di prendere qualcosa di caldo ogni tanto, col miele, magari quello un pochettino lenisce il fastidio, capito, del mal di gola. Sì, infatti. Vabbè, e purtroppo c'è un sacco di gente così, tutti contagiati, ma vero mondo, a Sassari, ad Alghero, nei paesi, a Uri, dappertutto, a Tissi, ma centinaia di casi, È pieno, purtroppo. Secondo idea, cosa devo fare un paio di foto? Yeah, fai. Purtroppo non è pieno, anche a Sassari, dappertutto. Infatti, ormai la mascherina conviene tenerla appena si esce di casa e toglierla quando si rientra. E quelle FFP2 praticamente non si trovano, oppure c'è gente che le sta vendendo ancora a 1,50 euro, 2 euro, anziché il prezzo standard. lettera B, si trovano solo quelle normali, quelle chirurgiche, diciamo a prezzi accessibili. Vabbè, quella chirurgica ce l'ho quasi 10 ore addosso, la tengo, quasi 10 ore più o meno. Dove le trovate? Dappertutto, anche le cinesi sto comprando attualmente, perché lì ce le hanno sicuramente. Domani ci faccio un salto, che è il giorno libero, domani mattina, e quindi mi faccio un giretto, qualcosa già. Dovrei trovarla allora da quelle, in quei negozi lì, dai. Guarda, l'ho trovata. C'è presente il Bricoman? Sì, dimmi, dietro? No, proprio più in giù di Bricoman. Non c'è quello che dice così grande, che c'è il parcheggio grande davanti alla strada? Ah, sì, ho capito. Già ce n'è uno vicino, proprio a fianco a Bricoman, e uno dall'altra parte, come si esce sulla, diciamo, all'uscita di Bricoman sulla destra. Esatto, io prendo di solito lì, perché so che le trovo della mia misura anche, soprattutto. Domani già ci faccio un salto, tanto devo passare pure da Bricoman, che devo prendere alcune cosette, tipo olio, quello spray CRC, come si chiama quello, CRC6. Allora passa alle 7 del mattino, per prima. No, prendi il WD-40, che è Cassana, quello, è micidiale in tutto e per tutto. E che è quella la sigla, Luca? WD-40. Sempre spray? Sì, sempre spray, è veramente ottimo, io lo uso per tutto, guarda, è un bijou, altro che CRC. Allora mi prendo quello, così lo provo, grazie del consiglio, perché io utilizzavo sempre quello, però se ce n'è di migliore, perché no? Ma perché lo uso pure io, quello che io lo uso di 40, è buonissimo, è meraviglioso. L'importante è provarlo, dai, domani ci passo da Bricoman e poi giro all'uscita, lì mi fermo in quel negozio di cinesi e vedo se trovo le mascherine. Corsi che un po', però ne vale la pena, guarda. Faccio la prova adesso, provo un baracchino, vediamo un po'. E quale radio stai provando, Luca? È un Mobicom, e ce l'ho qua ferma, sto accendo, un tipo me l'ha chiesto, se glielo vendo, è gettato qua, c'è qualche graffizione nel tappo, ma è... c'è il frequenzimetro, 200 canali, è abbastanza... cioè non è nuovo di pacca, però... La c'ha MFM solamente? Sì, MFM, c'ha due segnali, lo Smith, il digitale e l'analogico. MB40? Cosa? L'MB40? MB40, esatto, adesso la attacco un attimo. Vai Luca, così lo sentiamo. No, c'ho Gemella a casa. Mobicom, mi pare che era Mobicom 40, qualcosa del genere. MB40, io c'ho Gemella a casa. Va bene. No, io se lo usavo va benissimo. Adesso c'ho la fiamma a casa, adesso la metterò qua in macchina per farla scaldare un pochettino. Yeah. Io niente, io sto trasmettendo con un Albrecht AE5008 5890, sono quelli omologati, e c'ha MFM ed SSB. Prova, mi senti? Sì, Luca, fanno un passaggio più lungo. Ora un po', 1, 2, 3, prova radio. Già esce bene, vabbè, tu sei vicino a casa mia, praticamente sei un po' più sotto, ma in linea d'aria siamo vicinissimi, quindi segnale fondo scala, la radio è 5, è bella chiara e diciamo stai uscendo bene per quanto mi riguarda, siamo anche molto vicini. Prova con Cristian, se lo sbaglio. No, non sbaglio. Passaggio Luca. Guarda un po', 1, 2, 3, prova. È un bombo. 9:30 radio 5. Va bene Luca, sta uscendo bene comunque. Allora aspetta un attimino che dovrei fare un video, adesso faccio un passaggio, lo devo mandare. Allora Carlo, io questo qua è il passaggio, così vediamo, ecco qua. 1, 2, 3 prova e poi mi dici come mi stai ascoltando, vai, che sto facendo un video. Ora la radio come fischi, diciamo un po', rimane compressa, prova un po' a regolare il microfono. microfono. Beh, forse l'ho troppo attaccato, guarda un po', perché la radio, il microfono è amplificato, guarda un po', 1, 2, 3, pronto. Che la radio avesse più bassa, però è comprensibile, magari tagli una via di mezzo e riprova. Allora, adesso il microfono è a 5 e c'ho distante dalla bocca a 20 cm. Portalo un po' più su di 5 a vedere. Adesso è a 7, ho sempre attaccato il vetro da 10 minuti dalla bocca. Forse era meglio prima allora, Luca. Era più rimbombante, capito? Forse o ce l'avevi più vicino, prova adesso. Guarda, adesso è a 10, 1, 2, 3, prova, ma c'è la batteria scarica anche blu. No, no, adesso a 10, se l'hai messa a 10 va bene, così è bello, bella chiara, capito la voce. Ah, ok, dai, va bene allora. Andava bene, Cristian, dove sei? Beh, va bene, lascio così, che non muovo l'apparato. E dove sei, Cristian? Sono per la niente, sempre in giro in macchina. Vuoi andarmene a casa? Era a termine, Cristian. No, ho terminato, per me l'ho preparato d'ora fa. Sono una mica, per accompagnarmi devo tirare un pacco. Guarda, accompagnami qua, se sono ancora in giro, sono ancora in giro. Sì, a KK, io lo stesso casaligo oggi, perché ieri ho fatto la notte e sono rientrato intorno alle 5 e mezza a casa, sono buttato a letto, ho dormito sino alle 10 e poi sono dovuto andare a Bonorva e niente, però sono un neo. Stasera c'è la partita della Supercoppa Italiana, Inter-Juventus, vediamo come va a finire. Allora, sono il primo che non la guardo, sono anticalcio. Ti piace il calcio, no? No, no, proprio sono io e il calcio, ci vediamo proprio lei, proprio da lontano. E io come passatempo lo guardo, non è che sono proprio fanatico, però sono juventino e quindi quando gioco alla Juventus diciamo che me la guardo. Sì, mi sono visto l'Italia quest'estate alla rotonda dall'amico, fortunatamente. Almeno, no, già erano partite divertenti quelle della nazionale, all'europeo, poi abbiamo anche vinto e quindi tutto di guadagnato. E passo anche la sera, mi metto la sera sul palo lì a Platamora. Che mi hanno chiamato, arrivo subito, è 2 minuti. Vabbè, ce l'ho qua, boh, allucinante, va. Aspetta Carlo, adesso aspetta un attimo. Sto avvicinandomi adesso alla radio, non ho capito, perché mi ero spostato, mi avevano chiamato dentro. Eia, guarda adesso che ho aumentato, male sto facendo. Prima quando l'avevi messo a 10 andava benissimo, era perfetta la radio, invece così è meno chiara. Vabbè, ma guarda che sono allontanato dal microfono, guarda un po' adesso. No, prima era meglio. Così è meglio, 1, 2, 3, prova. Ecco, così va meglio, più vicino sei adesso al microfono. No, a doppia potenza questo microfono. Ok, lascialo così come adesso va bene, prima invece era più bassa la radio e non era ben comprensibile, capito? Così come l'hai messa adesso va bene. Cioè, non sto per fare un video. Se lo vuole, c'è il problema, quando lo metto a doppia potenza fa quel problema lì. Se lo vuole è quello, perché lui ne ha venduto uno uguale a questo qua, un pacchettizzato, 130 euro, ma il mio è 5 volte più nuovo del suo. Solo che ha questo piccolo problema, magari vuole regolare la potenza, ecco perché fa così, vedi? Adesso è a 5 watt, è così, a 10 non esce bene. Che microfono stai usando lì? Microfono un Astral, quello che c'è la rotella per l'amplificazione. Sì, lo conosco, no, io c'è nell'altro, c'è un microfono amplificato e basta, uno della ZG. Vabbè, attacco di nuovo il mio, lo stacco. Adesso lo stesso, devo vedere se trovo un microfono di quelli preamplificati per questo qua, che si adatti bene e vedo un po' cosa trovo in giro. Io ce l'ho, se lo vuoi. Gli attacchi sono tutti uguali. Allora, gli attacchi li devi fare. Buonasera a te, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, il mio è un Albrecht su 5890. E non vorrei sbagliare, adesso è che non lo, che sto parlando, non lo posso svittare. E dovrebbe essere a 5 poli. Allora, io ho un MB più 4, nuovo nuovo, ancora ne ha scatto. Non l'ho mai usato. Chi fosse interessato mi fa già sapere. Guarda, sicuramente va molto meglio. E oggi how much? Prototipo in privato, ma è 35 euro. Proprio non l'ho mai usato, mai. Proprio mai, mai, mai, mai. E qua, ancora è scatolato. Comprato e venduto il Galaxy, quindi non l'ho mai usato. Allora me lo prendo io. Aspetta che mi guardo, stacco un attimo questo e guardo come l'attacco di questo qua. Un attimo, riprendete pure. Brecco, brecco, brecco. Avanti Greco, avanti Greco. Ciao Luca, buonasera. Gianni da questa parte. Ho acceso adesso a strappo e non so chi c'è. Ah, a strappo? Ma è prima questa seconda? In seconda. Sono io, vabbè, quello che ho fatto entrare io. Poi c'è Carlo e Cristian. Avanti Carlo, per l'ubroffetta. Allora, ho smontato il microfono, adesso l'ho ripiazzato e ha 6 poli. Praticamente ha quella specie di slittino per l'incastro, no? È nero e poi si avvizza lo spinotto, capito, in acciaio. Lo spinotto puoi fare, questo qua è fino a 4, però se si può mettere il Kenwood si può mettere anche lì, non c'è problema, devi trovare chi te lo fa, perché io non lo so fare. Neanche io, quindi è da sistemare l'attacco, diciamo, del microfono. Sovvedo oggi se trovo chi, diciamo, me lo sa adattare a questa radio, me lo prendo, capito? Se si può, certamente. Va bene, fammi sapere. Buonasera a tutti comunque. Buonasera. Ciao Genio, ciao Carlo, buonasera. Ah, buonasera. Anche Luca e Cristian in radio. Ehi, Luca, ho salutato. Ciao Cristian, buonasera anche a te, dai. E beh, Genio. Allora, ciao già. A posto? Sì, dai, a queste coordinate più o meno è tutto a posto, dai. Per adesso, e niente. No, ho acceso a strappo, come stavo dicendo a Luca, sono partito a strappo in seconda, quindi non ho fatto ascolto. E niente, dai. Gira la ruota, vediamo se c'è Cristian, avanti. Ciao Gianni, dove sono in macchina a Sassari, divertendomi, mezzo al traffico, che incubo. Bene, Mela, qua stai arrivando una bombetta, anche se sei in barra mobile, dai. Segnalone, anche la radio è forte, dai. E poi c'è la Luca, mezzo arrughito, vai avanti Luca. Lo so, purtroppo, ma pizzicato questa volta. L'altro giorno ho parlato con la mia compagna, di gola, non stavo più soffrendo, mi manco di ciuga, per carità, sto soffrendo come un cane adesso. Poi ci voleva su portone, la supporto non fa niente. Non brasiliano. Quello fa male. Oia. Andavè, le temperature stanno calando, questi sbalzi di temperatura non aiutano certamente, e poi vabbè, siamo nella stagione, in una stagione che è sempre stata particolare, quindi ci sta, dai. Che microfono stai usando oggi? Una bomba è questa radio tua, Allora, il microfono che sto usando è un Palmare della ZG, esattamente l'M95. Lo squillante, bello chiaro pure, Vabbè che qua di segnale mi arrivi a bomba. Non avevo pure il microfono, l'ho dato a Roberto. Escono bene, ma non mi piazzia, strano. Tu pensi che abbiamo messo anche la capsula del telefono da assidio, quello bianco, da. Io ne ho uno amplificato Palmare, DM della Proxel, DM1000. Ciao amico mio, porto a torre, già che quello è buono. Ciao Lu, buonasera, buonasera. No, ma quello non lo vedo perché lo metterò in camper prima o poi. Sì, quello è buono, avanti un offerto. Ehi, sì, vabbè, esteticamente non vuole visto. Cioè, squadrato, pare di pigliare un pacchetto di sigarette in mano. Cioè, non è ergonomico, cioè, poi esteticamente è feo di droghe. Però, dai, a livello elettronico funziona bene, dai, fa la sua sporca figura, dai. Intanto mi hanno detto che il segnale è buono, quindi dell'estetica se ne freghiamo altamente, dai. Vabbè, cerchiamo di non guardarlo il ciccia. Vabbè, se funziona bene, mai si verrà l'estetica, è importante che funzioni bene. Vai, Eugen. Riprendete. Comunque Carlo, fammi sapere, ok? Sono qua. Riprendete tranquillamente. Sto facendo una cosa. Eugen, già ti faccio sapere in radio, tanto più o meno quasi tutti i giorni accendiamo, dai. Lì si tratta di cambiare lo spinotto, capite, adattarlo a questa radio. Sì, beh, in ogni caso tutti i microfoni vanno adattati, non pensare che trovi i microfoni già pronti, insomma. Comunque, informati, chi è capace a farlo, c'è anche Bobbonio, bravo. Mi sa che sono Franchi Luca, non lo so, molto va a chiedere. Lo chiederò a Antonello allora, che con lui ho anche il numero di telefono, se me lo fa, gli faccio vedere la radio, come ho gli attacchi, gli mando le foto su WhatsApp e poi mi dirà lui, poi ti do una risposta così. Sì, anche io condivido l'informazione di Eugenio. Antonello è uno smanettone, sicuramente ti potrà dare una mano. Già Gianni, già con Antonello già ci vediamo ogni tanto e quindi penso che me lo faccia volentieri se sono cose che lui ha già fatto altre volte, glielo lascio così me lo prepara e poi lo provo. A voglia! Se te lo sto dicendo è uno smanettone, figurati. Sicuramente per lui se non gioco ai ragazzi, dai, fare il cablaggio di quel microfono con lo spinotto a 6 poli. In questi giorni non l'ho sentito in radio, però già l'ho contattato al telefono. Leia, bene mera, avanti Cristian, dove sei? Dacci la tua latitudine. Scusa, invece a questo della farmacia. Bene mera, sempre una bombetta, forte e chiaro. Oh, yeah. Ma ti stai aiutando o è solo la potenza della radiolina? No, l'apparato, non le ho scaldavivande sotto il sedile. Bene, dai. Una bombetta. Sì, forte e chiaro. Avanti, Luca. Bianco, per me che ho la farmacia, dai. Ci sentiamo fra 10 minuti. A volte, sì. Ci sentiamo fra 10 minuti, dai, che è la farmacia. Luca, 3009, Superstar. E allora? Esce bene quella radio. Esce molto bene. Modulazione bella, limpida, chiara. Proprio come si tocca. Sì, una bella radiolina, dai. Non ci sono dubbi. Anche Marco, anche Doppio Room, quando la usa, proprio esce veramente bene. È una delle poche radioline, secondo me, baracchini, dai, che hanno questa modulazione bella, comprensibile e chiara rispetto a tanti altri, dai. Luca, qual è quella che ha praticamente il frontale argentato? Si conferma, Superstar 1009, sì, proprio quella. E manca il iPhone, non è male, quello che c'è giù dalla 25, c'è bene anche quello. Quelle sono buone radio comunque. Ma se io ti dico che vuoi 50 euro per il baracchino, è inutile che tu insisti, facciamo così, 55 spedita, te ne levi 4 euro, voglio 50 euro, punto, quella stai lì a insistere, ne ha venduto una uguale questo qua, senza staffa, tutta graffiata, 130 euro e poi mi tiri il prezzo, ma esci me ne da culo. Non so nuova quanto possa costare quella lì. Ma quale, Luca? Il Typhoon dici? Boh, non ho capito se voleva acquistare un altro 3009 o un altro Typhoon usato, boh, non ho capito. Luca stava prima provando una radio che vorrebbe vendere, capito? Non so se non ricordo male, ha detto che era una Mobicom, qualcosa del genere. Ah, vabbè, non... Non ho, sono entrato dopo, quindi non ho, non ho, di conseguenza non potevo sapere di cosa stavate parlando, dai. Sì, dai, stavo mandando un messaggio a questo qua. Cazzo, ma se io ti voglio 50 euro poi la Svezia mi arrangi tu, che può costare 60, 20 euro in più, cosa mi interessa a me? O no, o sbaglio? Da spedire un pacchetto con una radio del genere ti costa dai 12 ai 14 euro, dipende dal totale del peso del pacco e se lo mandi con poste e con SDA. Ma se io, allora, io l'ho detto, se, come si dice, se la radio te la consegniamo non mi dai 50 euro, poi se di mezzo c'è la spedizione te la paghi, giusto o sbaglio? Giusto, è giusto, la spedizione è a carico sempre dell'acquirente, tu ogni volta che compri, sia privatamente su qualsiasi sito, su eBay per esempio, eccetera, le spese di spedizione sono sempre a carico dell'acquirente, oppure in caso di radio nuove ti mettono spedizione gratuita, però ti hanno aumentato il prezzo, quindi alla fine è tutto incluso, capito? Vediamo un po' cosa dice, solo per te diretta, aspetta. Sì, ho capito, Luca, però stavo dicendo quello che avevo io, perché non ce l'ho messo. Ci do 30 euro. Con 10 watt di potenza, la radio usciva benissimo. Oh, non so se hai qualche altro problema, perché in saturazione la radio, non vorrei che poi lo devo ancora riparare, capito, Luca? Un attimo, Luca, Gianni, Cristian, che giro il pollo al forno, eh. Ehi, ehi, occhio, se mai se ne scappi. Vabbè, battutaccia, dai. Ehi, Lu, vedi tu cosa fai? Ah, senti un po', a proposito, mi è venuta in mente. Se mai ti dovesse capitare, che ti capiti sotto mano un portatile in vendita, fammi sapere che ho un amico che ne ha bisogno, quindi se ti dovesse capitare un computer portatile in buone condizioni, insomma, appena appena, non dico recentissimo, ma insomma neanche una caldaia, dai. Se ti capita fammi sapere, ok? Copiato Lu? No, scusa, già dimmi che sto combattendo questo qua. Cazzo, mi tira il prezzo, vabbè, è napolitano. Allora, ripeto, ho un amico che mi ha chiesto la cortesia di buscargli un portatile. Tra i vari pensieri avevo in testa mi sei venuto in mente tu, visto che hai questa possibilità, insomma, di metterci le mani, insomma, di fare alcune riparazioni a vari livelli. Volevo sapere, ti sto chiedendo se ti capita qualche occasione di qualche portatile in buone condizioni, cioè non vecchio come il cucco, ma neanche l'ultimo sticchio. Dico, se ti capita qualche occasione di farmi un fischio, ok? Guarda, già, se tu ti fai un giro su eBay e trovi i portatili, una portatile lascia il tempo che trovo, non è meglio che si mette un veicolare. Una alimentatore si costruisce da un computer, dai quelli, da qui così, dal computer, gli alimentatori dei PC fissi, un'antenna da ruta e fatto un U. No, Lu, non mi hai capito. Sto parlando di un PC portatile, computer portatile. Ah, certo, la modifica. Devo tenere fuori dei soldini ancora. E non mi metta niente gusti a me. Allora, io ne ho venduto uno da poco, ho trovato un amico. L'unica cosa che c'aveva, l'unica pecca, che gli manca il coperchio di sotto, dove c'è l'hard disk, lì, ci manca. Come si dice? Vabbè, gli ho dato pochi soldi, ci ho messo l'hard disk, ci ho messo la RAM, ci ho messo tutto il tempo che ci ho messo. Allora, un portatilino, poi io ne ho un altro, non ho un problema, accende così, se tu metti l'alimentatore e schiacci non accende, devi fare alimentatore, pulsante, ed è accende, non so che problema abbia, il tasto non è pretrotto, è stato, ed è a posto, non so che problema abbia, funziona benissimo, una volta che è acceso lui è buio giù. Ho capito. Vabbè, nel senso, se ti dovesse capitare in qualche occasione, insomma, da qui a nel prossimo futuro, se ti dovesse capitare qualche occasione con di qualche PC portatile, insomma, che funzioni discretamente, fammi un fischio, così giro l'informazione a questo mio amico e niente, dai. Mi dipende da quanto vuole spendere. Dipende da quanto vuole spendere, capito? Va bene, capito, tanti. Tanto quando c'è io non ne vuole nessuno. Tanto non andare subito domande, mi fai fatta apposta. Sì, poco fa stavo chiamando già, fatti entrare, sei sparito, avanti. Io ho visto che non rispondeva nessuno, allora non mi sono andato. Non fa niente, la stavo facendo un po' di commissione, sono andato alla dottoressa, gli ho mandato i messaggi per farmi le ricette, sono andato lì e poi non li ho letti, più spassi verso le 8, cazzo, e mi tocca durare, piace a te un abbraccio di quello lì, non cresce. Ehi, avanti, sto combattendo questo qua, mi sta assinando, ma riprendi il cazzo. Ciao a tutti comunque, buonasera. Ciao, avanti. Ciao Doppio, buonasera, ben entrato. Sì, stavo chiedendo info a Luca per un eventuale portatile, se riesce a recuperarmelo per un amico. Niente, dai, io faccio un altro paio di passaggi, mi metto qualcosa addosso e vado a farmi due passi, che sono tutto il giorno chiuso in casa, quindi ne ho bisogno, dai. Oh, bianco un attimo per la rigura. Calma. Ma io sono uscito col cane, sto tornando adesso, poi devo riscendere dalla dottoressa perché quella lì è imbranata, non la dice più, gli manda i messaggi, poi gli manda i messaggi e non li legge, mi avete di tornare alle 8, quindi devo tornare un'altra volta, non ho mai sotto casa. Allora, se ce l'hai sotto casa Gianni, già fai un salto e sei lì. Ciao Carlo, ben sentito, lo sapevo che c'era anche tu. Sì, c'ero prima, solo che sono di cucina, stavo girando il pollo nel forno, se no si attaccano tutte le patate, capito? Una giratina ogni tanto. Cappa. Beh, non lo farei attacca io. Quando faccio il pollo lo faccio a fiamma lenta lenta. Ci sta un bel po' a cucinare, però qui esce bello croccante e non è asciutto soprattutto. No, io già l'ho messo dalle 6:30, c'è già un'oretta, sta iniziando a dorare. No, non si asciuga questo perché io ci metto dentro il limone, metà limone, capito? Poi ci metto il rosmarino e uno spicchio d'aglio, capito? Poi un po' di sale sopra, le patate col rosmarino, sale, un filino d'olio e poi lo giro ogni tanto e cuoce piano. L'ho messo a 180 e penso che tra una mezz'oretta alle 8 sarà pronto. Cappa. E allora bisogna dare una batosta quando è pronto. Sì, gli diamo un wanzu. Io gli metto anche un filo d'olio sopra la pelle, la fa diventare croccante, poi io me la mangio, anche se so che fa male perché è un concentrato di colesterolo, ma a me mi piace, croccante, buona. Lo so, se è cotta bene ed è così croccante e buona, già la mangio anch'io. Io in più di te ci metto anche una spruzzatina di peperoncino. Ma qua non lo gradiscono gli altri peperoncino, quindi lo devo fare solo col sale e gli altri condimenti, capito? Perché piccante a casa mia non ne gradisce nessuno, solo io un pochettino. No, ma aspetta, non piccante da farti sudare, ne metto appena per dare il sapore, boh, basta. E vabbè, io lo metto anche nel sugo, un po' da tutte le parti, io sono di quelli che mi dà il sapore buono, ma ne metti appena, deve essere messo gradatamente, sennò poi è schifoso. Una volta sono andato a mangiare la pasta a casa di un amico, per non farlo rimanere male non gli ho detto nulla, stavo sudando, mi stanno scendendo le gocce. Ho capito, aspetta che saluto Gianni, ho sentito che se non è già uscito andava a farsi quattro passi. Ciao Gianni, ci sentiamo più tardi al limite. Ciao, no, non è andato via, detto che stavo un altro po'. Bene Meda, già siamo qua, allora comunque se devi uscire non ci sono problemi. C'è Luca che ha le prese con un tipo che gli vuole acquistare la radio, ma gli sta creando un po' di problemini. Ah, che radio vuole? Ma il baracchi è una di quelle gli sta dando, però non ho capito se la deve spedire o se la ritira a mano, non ho capito. Luca. Luca sta battagliando, dai. Ho sentito scavulzare Natalino. Sorte. Stavo dicendo, per quello che lo chiamano Gianni il Caldo, ma che è sempre pieno di bevarone. E allora, perché fa di là trattare le arterie, c'è sempre il sangue nelle vene. Adesso me lo metto in una busta bunivara, perché mi sta attendendo il ristoppo a me. È un vaso di lattatore, ma ne metto poco io lattali, deve stare una pelle tanto per dare il sapore. Non so di chi si ribolle due quintali, dopo, a parte che io lo prendo già macinato e mi regolo video. Quello intero io l'ho coltivato, ce l'ho quello calabrese, si bollisce uguale. Già lo so. Oh, c'è gente che si domanda.